Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 17 gennaio, bentornati di nuovo a tutti i nostri teleradioascoltatori su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città. O se siete nuovi, benvenuti. Io sono Caterina Bombarda con Antonella Cortese, che saluto. Ciao Antonella, bentornata finalmente. Ciao a tutti e bentrovati, è un piacere stare con te, stare con tutti voi. Sì, è stata un po' una desolazione condurre queste due settimane in solitudine, però poi ci siamo ritrovate. È bellissimo condurlo insieme a questo programma. Decisamente, decisamente. Io tra l'altro mi sono anche ammalata, poi sono guarita. Insomma, ragazzi, è un periodo tosto un po' per tutti e quindi sono più che contenta di essere tornata qui. Colgo anche l'occasione per salutare tutti i nostri amici e amiche dalla casa circondariale Dozza e dalle carceri dell'Emilia Romagna, in particolare dalla Dozza, perché abbiamo saputo già dalla settimana scorsa che c'è stata la chiusura dei colloqui, quindi ragazzi, coraggio. Però ci siamo noi a farvi compagnia tutti i giorni, un'ora al giorno, su Teletricolore, Radio Città Fujiko e Lepida TV, chiaramente. Anzi, scriveteci, fatevi sentire, perché noi ci siamo, vi rispondiamo, ci mettiamo in contatto, dai, vi aspettiamo. Ma partiamo subito a bomba con le notizie di oggi. Leggo questo titolo che mi ha colpito particolarmente: innocenti in carcere, un detenuto su tre vittima di ingiusta detenzione. Lo leggo sul Riformista, firma di Viviana Lanza, perché le statistiche sono allarmanti in Italia. Un detenuto su tre è innocente, questo è un dato nel 2021 in particolare registrato. Le chiamano ingiuste detenzioni, sono quanto di peggio possa a capitare a una persona che per caso o per errore di un PM o di investigatore si ritrova a essere rinchiuso in cella con persone sconosciute per giorni, a volte settimane o a volte mesi, ma persino anni, quando ci si imbatte in pubblici ministeri convinti della propria tesi e per niente disposti a ritornare sui propri passi. Ci sono poi chiaramente le ricostruzioni accusatorie che vengono portate avanti nonostante lacune, le contraddizioni che emergono nel corso di accertamenti successivi e nonostante anche i chiarimenti forniti dalla difesa o dai testimoni. Quindi questo è molto grave purtroppo in Italia, sì. A cui aggiungiamo, Caterina, anche i tempi dilatati della giustizia a questo punto. Sì, e non solo, anche con l'incertezza di non sapere mai se ci vorranno mesi o anni per arrivare e ristabilire la verità. Spesso si chiama questa custodia preventiva, che è la custodia cautelare prevista all'articolo 285 del Codice Penale, che prevede che l'indagato venga privato della libertà personale nonostante non sia stato ancora riconosciuto colpevole, ma è una cosa che causa moltissimi danni per la persona e per il suo ambiente, non solo familiare ma anche lavorativo circostante. E chiaramente quando è ancora più grave quando la condanna non dovrebbe sussistere e questa carcerazione preventiva quindi diventa solo una tortura. Senti, e per quanto riguarda invece il risarcimento economico proprio, dico. Guarda, come dici tu, c'è l'articolo 314 del Codice Penale che prevede, leggo, un'equa riparazione per la custodia cautelare subita. Ma io dico, non possono certo i soldi del risarcimento cancellare come un colpo di spugna i danni di una detenzione ingiusta, perché le conseguenze, come dicevo prima, sono terribili. Pensate, c'è chi perde il lavoro e quando finisce coinvolto in un'inchiesta non lo ritrova all'uscita, ma anche, ancora peggio, chi perde gli affetti. Ci sono famiglie e vite rovinate da arresti e accuse che non hanno ragione d'essere, che magari sono solo il frutto di un convincimento sbagliato. Per renderci conto dell'entità del danno di cui stiamo parlando, negli ultimi 30 anni in Italia si sono contati quasi 30.000 errori giudiziari con risarcimenti per quasi 900 milioni di euro. Senti, ma a proposito della ministra Cartabia, le autorità cosa dicono in merito? Guarda, nel discorso di Natale la ministra ha affrontato anche il tema degli errori giudiziari e delle numerose lettere di risarcimento che arrivano al Ministero della Giustizia, dicendo: dietro ogni lettera ci sono sempre singole persone, vite in carne e ossa. Quindi lei riconosce la gravità di questo problema e anzi ha citato il caso del professor Francesco Addeo, che adesso ha 80 anni, che all'epoca nel 2001 uno scienziato di fama internazionale venne arrestato a seguito di dichiarazioni di due imprenditori che nel corso del processo poi si sono rivelate infondate. Ma di storie come queste se ne ripetono a centinaia ogni anno, e c'è un'associazione che voglio segnalare che si chiama errorigiudiziari.com, che è condotta da due giornalisti che da più di 20 anni si occupano di carcere e raccoglie dati e storie di vita di vittime di mala giustizia. Quindi se volete cercare su questo sito è veramente molto molto interessante. Ma passiamo alla musica, perché siamo a metà, quasi a metà della nostra puntata, e dedichiamo la settimana a un autore conosciuto come The Weeknd, e questa canzone famosissima del 2016, I Feel It Coming, la voglio dedicare oggi a Igly, che dal carcere della Dozza ha cominciato un tirocinio molto molto promettente per il suo futuro. Ascoltiamola e a tra pochissimo con te, Antonella. Eccovi, bentornati, parliamo con, siamo sempre su Liberi Dentro, Eduradio e TV, e cominciamo invece ora da te, Antonella, con notizie di cultura e società. Parliamo di tecnologie. Sì, parliamo di tecnologie, di un articolo che è stato scritto da Pierre Aschid e France Inter, sul fatto che la tecnologia non cambia soltanto le nostre vite, ma anche i rapporti di forza tra i paesi e tra i gruppi di paesi. Quasi non passa giorno, se ci pensiamo, senza che ne arrivi un esempio. Lo faccio subito: chi non partecipa alla corsa corre il rischio proprio di finire declassato, se non addirittura vassallizzato da chi ha fatto la scelta giusta. Ma a cosa ti riferisci esattamente? Infatti, l'esempio è questo. Un caso recente è quello della rapida ascesa dell'automobile elettrica. Ormai si parla tanto tipo di Tesla, di queste automobili completamente elettriche, e la conseguenza crescita chiaramente del settore della produzione di batteria. La Cina ha agito d'anticipo investendo in maniera massiccia, tanto che oggi produce l'80% delle batterie del mondo. La situazione però sta cambiando e quindi anche la mappa mondiale delle batterie si evolve rapidamente, se ci pensiamo. Ma anche da noi in Europa c'è la Svezia che ha inaugurato la sua prima gigafactory d'Europa, ovviamente, per la produzione di batterie. Situata a 800 km a nord di Stoccolma e gestita dalla società Northvolt, fondata nel 2016 da ex dipendenti della Tesla, ovviamente. E in tutto il continente, per colmare questo ritardo, vengono portati avanti decine e decine di progetti di fabbriche di batterie con il sostegno della Commissione europea. E Bruxelles, infatti, ritiene che l'Europa sarà autosufficiente nel 2025, quindi molto presto in realtà. Mi viene in mente che c'è anche un altro fenomeno che riguarda in particolare i paesi asiatici, ma non solo, questa corsa ai minerali, vero? Infatti, Caterina, la dipendenza dalla Cina è proprio a monte. Noi stiamo parlando delle batterie, ma dovremmo appunto risalire, perché i minerali utilizzati sono ancora in gran parte controllati da aziende cinesi. La metà del cobalto mondiale contenuto nelle batterie proviene appunto dalla Repubblica Democratica del Congo, dove i cinesi sono molto attivi, spesso con pratiche discutibili, come ha rilevato uno scandalo battezzato con il nome Congo Hold Up. Poi il cobalto viene raffinato principalmente in Cina e l'Europa, dobbiamo dirlo, si è svegliata tardi, cerca di sviluppare nuovi approcci, ma la Cina ha dato prova di saper anticipare e investire quando gli altri sono ancora in una fase, diciamo, di riflessione. E poi c'è un altro settore ancora più selettivo che veramente ha destato la mia curiosità, che è quello dell'informatica quantistica, che permette di realizzare a velocità accelerata operazioni insolvibili per i computer attuali. Pensa, Caterina, che il rapporto è di 3 minuti contro 10.000 anni, per dare giusto un'idea del cambiamento di paradigma. E in questo caso statunitensi e cinesi se la giocano, mentre gli europei sono ancora lì a pensare a come devono colmare il divario. E la Francia, infatti, ha inaugurato il 4 gennaio una piattaforma nazionale di calcolo quantistico che sarà a disposizione dell'esercito, dell'industria e della ricerca. E la ministra della difesa francese Florence Parly ha spiegato che questa capacità di calcolo fenomenale farà la differenza nelle battaglie di domani e non ho dubbi in merito. Questo è il primo frutto di un investimento di circa 2 miliardi di euro annunciato all'inizio dell'anno, però non è nulla rispetto al budget di Washington e di Pechino. Diciamo che gli permette giusto di restare a galla e di stare nella gara. Quindi potremmo dire che siamo in un momento di trasformazione epocale, no? Sì, siamo in un momento in cui la corsa è folle e sia il quantistico che le altre tecnologie di lettura come l'intelligenza artificiale stanno ridisegnando la mappa dei rapporti di forze mondiale del XXI secolo e di conseguenza anche le definizioni delle leggi, il settore dell'impiego e le dipendenze di domani, quindi la posta in gioco è molto alta. Però voglio dire che questa tecnologia emergente, sempre più forte, sempre più presente, sta portando anche nelle nostre carceri qualche cambiamento positivo dovuto principalmente al Covid. Per esempio nel carcere di Bollate stanno creando un network interno per comunicare internamente per ora, ma poi in futuro magari anche con l'esterno. E quindi diciamo questa tecnologia può venirci incontro se usata con intelligenza, anche nel nostro piccolo mondo. E passiamo a una canzone. E vi farei ascoltare Easy on Me, l'ultima canzone di Adele, che è stata pubblicata da pochissimo. E poi non andate via perché c'è Fernanda Abiuso, volontaria AVOC, con l'intervista. A dopo. Buongiorno a tutti, eccoci qua di nuovo a parlare di AVOC, delle persone dimittenti all'interno dell'associazione AVOC. Oggi è il momento di parlare invece di come le persone volontarie all'interno di AVOC hanno reagito in seguito alla pandemia da Covid che purtroppo sta ancora dilagando. Via con la pillola. La pandemia che purtroppo ci ha travolto da quasi 2 anni, come ha influenzato il vostro lavoro con le persone dimittenti? Quali sono le criticità maggiori che ha dovuto affrontare? Il primo lockdown ha azzerato un po' tutte le possibilità per molti di noi di operare, perché ci fu proprio un'indicazione che gli over, credo 65, io sono in quella fascia d'età, ma come me e molti altri, non potevano operare all'esterno. Il carcere ha chiuso gli accessi alle persone esterne, quindi ci siamo fermati, quindi c'è stato un attimo proprio di fiato sospeso, ci fermiamo, si blocca tutto. Poi abbiamo attivato le persone under 65, mi sembra di ricordare che fosse, dell'associazione, perché non c'erano più le possibilità per uscire, non c'erano più magari quei lavoretti precari che ciascuno riusciva a fare. Quelli che lavoravano nella ristorazione, come sappiamo, si sono bloccati tutti, e quindi siamo dovuti intervenire proprio col portare la spesa. Quindi a un certo punto abbiamo cominciato a portare la spesa settimanalmente, a fare il giro di tutti gli alloggi, portando la spesa alimentare, detersivi, prodotti igienici, tutto quello che poteva servire. E quindi questo è stato un cambio brusco, insomma, perché non era così regolare, insomma, l'abbiamo dovuto fare, quindi partivamo con le macchine cariche a fare i giri. E ha avuto una ricaduta ovviamente sulle possibilità di lavoro, soprattutto per quelli della ristorazione e anche dell'edilizia, insomma si era fermato un po' tutto, quindi le persone sono state un po' bloccate, ci siamo sentiti come un po' impantanati. Dopo sono un po' ripartiti, nel 2021 siamo un po' ripartiti e così, però questo è un anno perso praticamente dal punto di vista del reinserimento dei nostri ospiti. È stato un anno perso, come per molti altri purtroppo, però è andata così, insomma. E adesso è il momento di un breve stacco musicale. Torniamo presto con la pillola. Yeah. Dopo un breve stacco musicale è il momento di continuare la nostra intervista insieme a Fernanda Biuso e adesso ricomincia la pillola. Fernanda, in che modi i dimittenti possono partecipare ai percorsi di semiautonomia? Sono loro che devono fare richiesta o vengono selezionati dai volontari? E se sì, su quali basi nello specifico? Le persone detenute fanno una domanda, viene chiamata domandina, diciamo, fanno una domanda scritta e i volontari vanno a vederli. Qualcuno ha avuto l'indicazione, magari da altri volontari a AVOC o di altre associazioni che ci conoscono, di fare la domanda a mio nome quando sono interessati all'alloggio. Il passo è: chiunque ci segnali, noi lo andiamo a conoscere. Chi ci può segnalare la persona? Lui stesso, l'interessato stesso, che ci racconta la sua situazione, e gli educatori, gli avvocati, altri nostri volontari che fanno i colloqui e quindi segnalano a noi, oppure dicono all'interessato o all'interessata di fare una specifica domanda in modo che noi li andiamo a vedere. L'UEPE, che magari ha delle persone già in affidamento all'esterno che possono avere bisogno di cambiare alloggio perché magari la situazione alloggiativa non è più disponibile, è diventata difficile, c'è qualche problema, oppure che sono nuovi, o sono nuovi maggiorenni, diciamo così, che ci è capitato anche questo, e quindi a un certo punto devono, o non possono stare in casa, o sono persone appunto che sono uscite e però l'ambito familiare dopo un po' non li vuole più accogliere, non è più in grado perché si sono create delle tensioni, insomma, quindi c'è tutta questa gamma, questa possibilità. Quello che è importante per noi è, come associazione, è conoscere le persone, confrontarci con gli educatori e con gli avvocati, con tutti quelli che ce l'hanno segnalati, per aggiungere informazioni, per capire un po' qual è la storia della persona, quali sono le potenzialità, quali sono anche i precedenti, perché ci raccontano parte delle cose che non vanno fatte, che non possiamo o che non siamo in grado di affrontare. Noi come associazione non possiamo accogliere persone che hanno una dipendenza non risolta o che hanno problemi psichici perché non siamo strutturati. Negli appartamenti loro sono da soli, sono controllati dai nostri incontri, dalle nostre telefonate, ma non ci sono le videocamere e non sono strutture con personale di assistenza. Quindi questo qualche volta ci è capitato con persone che avevano qualche difficoltà ancora in corso, e quindi naturalmente collaboriamo anche col CERT, con gli uffici, con i servizi sociali esterni al territorio, con il centro per l'impiego. All'interno del carcere il CEFAL, centro di formazione, può fare i tirocini, quindi c'è anche questo passaggio, può far iniziare i tirocini all'interno che poi finiscono all'esterno se la persona esce. Quindi c'è tutta questa rete. Noi come AVOC partecipiamo all'equipe di Mittendi, quindi sappiamo che lì c'è anche un punto di riferimento per l'equipe di Mittendi. Si incontra mensilmente in maniera quasi regolare ed esamina i casi che usciranno da lì a 12 mesi, che hanno il fine pena ufficiale da lì a 12 mesi. Okay? Quindi ci sono tutte queste possibilità e le variabili sono molte, naturalmente. Cerchiamo tutti insieme di fare un progetto sulla persona, che io dico sempre che la casa, l'abitazione è l'ultimo tassello. Se non c'è qualcosa che gli può aiutare economicamente, se non c'è un tirocinio, se non c'è una promessa di un volontariato, se non c'è un'attività che cominci a riempire il loro tempo, perché magari non tanto il fine pena, ma soprattutto, non so, una misura domiciliare può diventare un tempo vuoto, costretto in casa, e quindi non è utile a nessuno. E come dicevo, se non abbiamo dei canali poi ufficiali per dichiarare i tempi di uscita, la persona è costretta a stare lì, come qualche volta ci è capitato, per fortuna non recentemente, ma insomma ci è capitato in passato. Quindi c'è tutto questa macchina, diciamo, che prepara il passaggio e che quindi poi anche dall'uscita dal carcere poi si attiva l'UEPE, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna, per continuare il monitoraggio dal punto di vista istituzionale. Anche per oggi la nostra pillola termina qui, ma noi ci rivediamo settimana prossima sempre in compagnia di Fernanda Biuso per parlare ancora di associazione AVOC e di persone dimittendi all'interno della stessa. Alla prossima! Rieccovi, bentornati per i saluti di fine puntata in cui vi ricordiamo le rubriche a seguire. Oggi abbiamo le interviste sostenibili dove Danilo Cinti intervista Susanna Corti, che è una climatologa e dirigente di ricerca presso l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna, e poi continuiamo con Padri in Pena, questa nuova rubrica sulla genitorialità a cura di Silvia Ferrero e Simona D'Agostino. Vi ricordiamo di iscriverci a redazione liberidentro@gmail.com e come al solito noi ci rivediamo domani, ma vi salutiamo sempre, io che sono Caterina, Antonella Cortese, Nea Flacco, Diana Bota, il nostro Paolo Leotti, Ignazio De Francesco, ciao, grazie a tutti, a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Gioca d'azzardo.